che pietà dell'amor mio. Pria perdon mi prometti, silenzio e fede, e poi m'ascolta. Tutto io ti prometto, ed io tutto ti scoprirò. Real donzella! Ah, qual inciampo! Oddio, quel fantasma d'orrore in te ritrovo! Ah, che soffrir non posso! E perché nutri tanto odio contro me? Non ho regina, odio il mio male in te, non l'innocenza della la tua. Riveggio in quel sembiante il mio cuore acerato, il traditor, la fe schernita, il fonte delle lacrime mie. Te mi permetti che io non ti vegga? In tutto compiaccio al genio tuo, già che t'offendo. Frenetica la sembra, ed io l'intendo.